Ben ritrovato Valerio Malorni per parlare con noi della scoperta dell'America che sarà in scena al Blue Desk qui a Roma sabato 10 e domenica 11 febbraio. Valerio, ben ritrovato. Grazie, anche a voi. Allora, per chi ci ascolta, raccontiamo un po' cos'è questo capolavoro di Cesare Pascarella. Sì, si tratterà di un capolavoro, anche perché la sua produzione, nel senso, è la sua punta di diamante, sia perché non ha scritto così tanto, sia perché è un suo progetto enorme che voleva scrivere la storia intera d'Italia, diciamo, dai romani fino al romanesco per finire a noi, non riuscì mai a finirla. È il racconto della scoperta dell'America, questi suoi 50 sonetti romanesco. Praticamente dalla prima intuizione di Colombo di voler partire, alla disfatta di un paese che non l'ascolta, alla partenza poi per mare dal Portogallo, no, sognando in qualche modo un altro mondo, a tutto quello che poi è stato, diciamo, il torbido, l'assurdo e massacrante momento di conquista da parte di tutta la ciurmaglia, diciamo, dell'America, e il ritorno quindi con tutte le ruberie che avevano commesso, fino per concludersi con il suo anche misconoscimento in qualche modo della persona, che nel momento in cui aveva conquistato il re, non gli diede nulla e rimase praticamente solo, senza soldi. Quindi in questo senso la bellezza del testo di Pascarella è che si mette su un piano in qualche modo artistico, cambiando fronte di volta in volta, ma cercando di raccontare sempre l'uomo, la tenacia del navigatore, l'uomo, diciamo, il selvaggio poi che viene conquistato e ucciso, l'uomo del navigatore che rimane solo e infine l'uomo italiano che di fronte alla storia rimane sempre un po' in solitudine, nel senso che questo testo lui l'ha scritto all'indomani dell'Unità d'Italia, a fine 800, e col suo romanesco, prima ancora di riflessioni, diciamo, sul dialetto, col suo romanesco andò in giro per l'Italia per voler parlare agli italiani nel senso bello, ecco, nel senso di un sentimento di appartenenza sano, ecco, non certo patriottico negativamente o fascista, ma nel senso del voler raccontare attraverso la propria lingua una storia, cosa che in quel momento era assurdo, insomma, anche era pioniere in questa cosa qui, no? Di voler portare la propria storia, il proprio dialetto, una storia che è tra i fatti e le riflessioni e le digressioni continue sull'uomo e sull'agire dell'uomo, volerlo fare in una lingua che a quel tempo, all'indomani dell'Unità d'Italia, chiaramente non c'era l'italiano, e pensare di fare un teatro del genere era assolutamente rivoluzionario in qualche modo. Oh, tu e Andrea Cota è un lavoro che state portando in giro da qualche anno. Com'era nato il progetto? Ma il progetto era nato, diciamo, come nascono a volte i tuffi. Tu sai che tu sei un esperto tuffatore, sai che a un certo punto ci si tuffa per ardore, per sentimento. Eravamo amici e incrociati diciamo, nella realtà artistica romana, diciamo così, un po' io venivo dalla musica, ma soprattutto dal teatro, amicizie. E abbiamo, niente, io avevo questo testo che avevo incontrato e gli proposi vogliamo andarci, siccome anche lui è un musicista e compositore che, diciamo, non è un musicista e compositore da studio, è da palco, da contatto e rapporto con le persone, e siccome appunto il testo del quale abbiamo fatto, diciamo, un adattamento, ma in larga parte quello originale con qualche nostra modifica, però vogliamo mantenere e ri riattualizzare, rivitalizzare nel rapporto col pubblico l'apertura stessa del testo, che comunque non vuole essere appunto a zuente aulico, il romanesco è inteso proprio come contatto diretto, schietto con chi ascolta e di rapporto. In questo senso il suo fare musica è bello, è fantastico perché la fa innanzitutto per un rapporto con le persone, non da studio, se non, no, da ascolto, ma in un secondo tempo quasi. Quindi in questo senso eravamo entrambi pronti a tuffarci in questa Senti, cosa. del testo cos'è che apprezzavi maggiormente? Cosa ti piace di più? Beh, innanzitutto l'invenzione linguistica, devo dire, cioè di quando il linguaggio comunque riesce a farti spostare in qualche modo la percezione delle cose e quindi riesci ad entrare nelle riflessioni con maggiore temperatura, perché è un linguaggio che c'è una cosa che mi piace molto, per esempio, una riflessione in qualche modo anche banale, però terra, tu sai che oggi a Roma terra si dice terra. In qualche modo, no? Sì. Siamo arrivati a questo. Al tempo di quando scriveva lui, terra era con tre R, cioè nel dialetto romanesco, invece di togliere la doppia veniva addirittura raddoppiata, quintuplicata, no? Sì. E quindi si diceva terra, e in un testo come questo qui, diciamo, qui anche il momento della navigazione e della scoperta della terra, prescindendo anche a che ne è conseguito, però focalizzandoci, diciamo così, sulla tenacia di un uomo che voleva scoprire quello in cui credeva, no? Che ha molto a che fare anche con la metafora dell'artista o del militante in qualche modo, no? Che ha un'idea e vuole arrivare a compierla contro tutto e tutti. Ecco, il dire terra, no? Finalmente, dopo tanta solitudine, dopo tanto smarrimento, è un momento di epifania importante. In questo senso, dire terra con Sì, 6 R piuttosto che terra, se tu lo provi a dire, vedrai subito che l'ardimento che si sottende è molto più bello con tutte quelle R. Quindi questo rispetto alla tua domanda è sì. questa unione tra un racconto e una lingua che riesce a innalzare il racconto e portarlo fino all'orecchio di chi ascolta. Valerio, per saperne di più, ci lasci tutti i vostri riferimenti web, se c'è pa una pagina Facebook, un sito internet. Sì, ci sta la pagina web Facebook innanzitutto di Blue Desk Studio, dove verrà fatto questo ritorno appunto a Roma, dove si mette un po' in giro, e Blue Desk Studio su Facebook e bluedeskstudio.it Il sito internet. per l'evento e per anche altri lavori dell'associazione in qualche modo che portiamo avanti, si muove tra, come sai, tra documentari, teatro e rassegne. Sì. Lì in loco e in giro. Benissimo. E poi sui nostri riferimenti Facebook, diciamo, di Andrea Cota e Valerio Malorni. Benissimo. Allora, ricordiamo l'appuntamento con la scoperta dell'America per mano di Valerio Malorni e Andrea Cota dal testo di Pascarella, sabato 10 e domenica 11 febbraio al Blue Desk a Roma. Valerio, un abbraccio, a risentirci presto. Alle 9, perfetto, ore 21. Ciao. Ciao, ciao, grazie, ciao.